24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il finale polemico della presidenza ungherese dell'Unione Europea col duro scontro a Strasburgo tra il premier Viktor Orban e gli eurodeputati. Sempre l'Europarlamento ha dato il via libera alla possibilità per i paesi membri di autorizzare o negare la coltivazione di OGM. Sul fronte della salute l'Europa ha deciso di vietare temporaneamente l'import di semi di fieno greco dall'Egitto, ritenuti come i possibili responsabili dell'allarme di Escherichia coli. Per gli spettacoli vi parleremo di un film francese in arrivo nelle nostre sale e per lo sport resteremo oltre Alpe con le ultime dal tour. Végeznénk kell a munkánk értékelését, akkor azt mondhatjuk, hogy a magyar elnökség maradéktalanul teljesítette. Finale polemico ieri a Strasburgo per la presidenza ungherese dell'Unione Europea. Il premier Viktor Orban, che state ascoltando, si è congedato con toni minacciosi, avvertendo che non accetterà mai le critiche europee contro il suo paese, in particolare contro la controversa Costituzione. Difenderò sempre l'Ungheria dai rilievi e dalle critiche di Bruxelles o altrui, ha detto Orban di fronte all'emiciclo, tirando un bilancio del semestre di presidenza conclusosi il 30 giugno. L'Ungheria non è subordinata a Bruxelles, Bruxelles non è il centro di comando dell'Ungheria, ha aggiunto poi in conferenza stampa. Poco prima l'Europarlamento aveva approvato una risoluzione proprio contro la nuova Costituzione entrata in vigore a Budapest. I governi europei e le istituzioni internazionali come la BCE e il Fondo Monetario, impegnate nel salvataggio della Grecia, non dovrebbero fare troppo affidamento sulle valutazioni delle agenzie di rating. Lo ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel, facendo riferimento alle ultime bocciature da parte di queste società delle proposte che prevedono il coinvolgimento dei creditori privati nei nuovi aiuti ad Atene. Primo sì del Parlamento europeo alla proposta della Commissione che dà la possibilità agli Stati membri di decidere se coltivare o meno organismi geneticamente modificati sul loro territorio, il servizio. Il Parlamento europeo ha votato ieri con una maggioranza schiacciante a favore del diritto degli Stati membri a vietare la coltivazione nel proprio territorio di organismi geneticamente modificati, anche se autorizzati a livello comunitario. La plenaria, riunita a Strasburgo, ha approvato il rapporto di Corinne Lepage, ex ministro dell'ambiente francese, che rafforza notevolmente in senso anti-OGM una proposta di modifica dell'attuale quadro legislativo presentata dalla Commissione europea. Secondo il testo dell'Europarlamento, che ora dovrà essere approvato a maggioranza qualificata dagli Stati membri in Consiglio europeo, i divieti nazionali di coltivazione di un OGM autorizzato a livello europeo saranno possibili in base a motivazioni ambientali, come ad esempio la protezione della biodiversità. Gli Stati membri, inoltre, secondo il testo approvato a Strasburgo, dovranno prendere delle misure per impedire che le coltivazioni di OGM contaminino piante convenzionali o biologiche e dovranno prevedere l'obbligo per i responsabili a pagare i danni nel caso in cui si verifichi la contaminazione transgenica. Roberta Pellegatta, Radio 24 e Sole 24. L'Unione Europea ha deciso di vietare temporaneamente l'importazione di semi di fieno greco dall'Egitto e di ritirare dalla vendita un gruppo considerato come il legame più probabile per i contagi da batterio E. coli in Francia e in Germania. E ora passiamo all'economia, ascoltiamo come sono andati i mercati. Seduta fiacca ieri per le borse europee, che non hanno ricevuto spunti neppure dall'apertura altrettanto debole di Wall Street. Così Parigi ha ceduto lo 0,6%, Francoforte lo 0,05%, mentre Londra ha guadagnato lo 0,11%. A Milano il FTSE MIB ha lasciato sul terreno lo 0,97% e lo share lo 0,95%. Realizzi su Fonsai meno 8,2% e in generale sui finanziari, a partire dalla Popolare di Milano meno 4,2%. Il titolo del giorno è tuttavia la CIR della famiglia De Benedetti. L'azione, dopo la notizia relativa all'inserimento nella manovra finanziaria di una norma che avrebbe consentito alla Fininvest della famiglia Berlusconi di non pagare i 750 milioni legati al lodo Mondadori, ha infatti aperto in rosso del 3,3%. Poi, nel corso della seduta, ha recuperato terreno per chiudere quasi in pari mentre la norma veniva stralciata dalla finanziaria. Ceo Condina da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore. L'agenzia di rating Moody's ha tagliato il rating sul debito a lungo termine del Portogallo di 4 livelli da Baa1 a Ba2. Moody's inoltre ha tagliato il rating sul debito a breve termine da Prime 2 a Not Prime. Moody's è la prima delle tre grandi agenzie di rating a tagliare la valutazione del Portogallo a livello di junk bond. Sarà il dossier greco a rappresentare il primo vero ostacolo per Christine Lagarde quale nuovo direttore generale del Fondo Monetario Internazionale. La Lagarde, undicesimo direttore dell'FMI, ha preso servizio nel giorno in cui sembra definitivamente sgretolarsi l'impianto accusatorio contro Dominique Strauss-Kahn. La attende un programma di lavoro molto carico. Ad aspettarla non ci sarà solo Grecia e crisi dell'Eurozona, ma anche il surriscaldamento di alcune economie emergenti e la crescita dei prezzi delle materie prime. Il primo atto sarà lo sblocco della quinta tranche di prestiti ad Atene dopo il via libera dell'Eurogruppo lo scorso sabato. L'imprenditore Elio Fiorucci ha vinto la controversia sull'utilizzo del marchio Fiorucci, che lo vedeva contrapposto alla giapponese Edwin Co., per stabilire chi sia il titolare del marchio denominativo. Così una sentenza della Corte Europea di Giustizia che si è dichiarata favorevole all'imprenditore italiano. Il Parlamento Europeo ha approvato la riduzione di quasi 572 milioni di euro al contributo dell'Italia per il bilancio comunitario. Si tratta di importi non utilizzati nel 2010. L'importo totale da restituire agli Stati membri è pari a 4,54 miliardi di euro. Alla Germania saranno restituiti 923 milioni, alla Francia 741 e alla Gran Bretagna quasi 640. E ora parliamo di pirateria informatica, operazione ieri all'alba contro la cellula italiana di Anonymous, un gruppo di hacker molto diffuso pure in Europa. Nel loro mirino erano finiti i siti di aziende e istituzioni, dall'ENI alle Poste, dal Senato alla GCOM, tutti colpiti dopo specifici fatti di cronaca o a seguito di decisioni relative alla rete internet. E i danni non erano stati da poco. Alla fine, la Polizia delle Comunicazioni ha individuato in un 26enne italiano residente in Svizzera l'animatore del gruppo italiano di hacker di Anonymous. Secondo il Corriere della Sera, il suo cognome è Frey ed era anche il nickname, il soprannome che usava nelle sue incursioni informatiche. Nell'operazione di stamattina sono state compiute numerose perquisizioni e altre due persone, oltre al capo del gruppo, sono state denunciate. Sarebbero 36 in totale gli informatici coinvolti nelle indagini, compresi alcuni minorenni. A quanto pare, il gruppo sceglieva gli obiettivi da colpire con una votazione che interessava anche il network internazionale di Anonymous. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi il commissario per l'agenda digitale, l'olandese Nili Kroes, presenterà una proposta per la riduzione dei tetti massimi delle tariffe di roaming all'interno del continente, ritenute ancora troppo alte. L'obiettivo è far scendere il tetto delle chiamate effettuate in roaming da 35 centesimi al minuto a 24 centesimi entro il luglio 2014. L'obiettivo dell'agenda digitale europea è di azzerare le tariffe di roaming tra i paesi dell'Unione entro il 2015. Proporrò una soluzione anche per gli SMS e per il traffico dati in rete, ha annunciato la Kroes sui propri account Twitter e Facebook. E siamo giunti alla pagina degli spettacoli, produzione e regista italo-francese. Sono bastati 700.000 euro a Michel Zampino per realizzare come opera prima un thriller psicologico con 5 settimane di lavorazione e una sola location. Arriva nelle sale italiane da venerdì l'inquietante L'Erede. Nel cast l'attrice siciliana Guia Ielo, che dopo tanto teatro e fiction dice «Ci voleva un regista non italiano per portarmi di nuovo al cinema». Lancio una freccia a favore di molte attrici che sono come me, cioè che sono affermate, che sono conosciute mediamente per gli addetti ai lavori, che hanno studiato tantissimo, ma che continuano a stare nei corridoi. Qui quello che interessa è se uno ha preso il Davide, se uno ha preso il nastro d'argento, se una è alla moda e se una fa 2000 film. Cioè, meno ne fai e peggio è. E dovrebbe essere il contrario. Invece Zampino mi ha aperto la porta di un salotto, non del corridoio, e quindi me lo ha regalato. Chiudiamo con lo sport. L'australiano Cadel Evans ha vinto la quarta tappa del Tour de France da Lorient à Mur de Bretagne, battendo in volata al fotofinish Alberto Contador. Il servizio. E sempre ad un secondo dalla maglia gialla, ma oggi Cadel Evans si è tolto la soddisfazione di arrivare primo. Gilbert stecca, Evans vince, Contador dà un segnale importante. Toruscio resta in maglia gialla per il terzo giorno consecutivo. E questo è in estrema sintesi il verdetto della quarta tappa. Sullo strappo finale posto sul Muro di Bretagna, dopo aver assistito ad un turbinio di formazione in testa al gruppo, Contador ha piazzato il primo scatto sul tratto più duro. Gilbert, oggi era il suo compleanno, ha esaurito tutte le energie per riportarsi sotto lo spagnolo e poi ha pagato a caro prezzo lo sforzo compiuto. A lanciare lo sprint è stato così Cadel Evans, che è riuscito a contenere per pochi centimetri la rimonta di un pimpante Alberto Contador. Al terzo posto Vinokurov, al quarto Uran, davanti a Gilbert e Ushov. Tra gli uomini di classifica, Bass e Wiggins hanno accusato un distacco di 6 secondi. Horner, Andy Schleck, Kuhn e Wegesing ne hanno pagati 8. Ferragosto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bourg de Bretagne. E per gli appuntamenti di oggi vi segnaliamo le stime Eurostat sul prodotto interno lordo del primo trimestre 2011, all'Europarlamento dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul programma di attività della presidenza polacca, sempre a Strasburgo, discussione sulla crisi finanziaria, economica e sociale in Europa. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Mauro De Angeli per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.